A qualche giorno di distanza dal contestatissimo voto che ha confermato il presidente bielorusso Lukashenko, Veronika Cherkasova, 45 anni, una giornalista dell'opposizione bielorussa, è stata trovata morta nel proprio appartamento di Minsk, uccisa da 20 coltellate. Si indaga in ogni direzione, ma queste 20 coltellate ci portano a sospettare un movimento passionale. Non abbiamo trovato tracce di effrazione, afferma la polizia. Secondo il Moscow Times, la Cherkasova non era una giornalista di opposizione. Nello stesso articolo ritroviamo anche una dichiarazione di un portavoce del governo bielorusso che afferma che la Cherkasova non era mai stata in possesso di notizie sensibili e che si trattava di una giornalista politica che brillava per la propria neutralità. Eppure, in un articolo pubblicato da The Russian Journal, il giornale economico di lingua russa, il 6 luglio 2001, troviamo queste affermazioni della Cherkasova risalente ai primi di settembre. Le autorità bielorusse hanno capito che metodi repressivi provocano troppe proteste. Le autorità sono quindi passate a non pubblicizzare le proprie azioni. Si limita il numero di copie prodotte dai giornali e dalle pubblicazioni indipendenti, si scoraggiano i lettori a sottoscrivere abbonamenti e si impongono tasse spropositate per stampare. Difficile non sospettare che il delitto passionale non sia in realtà invece molto politico e che si faccia di tutto per tenere tranquilla la stampa internazionale. Sempre secondo lo stesso articolo, gli editori bielorussi di giornali indipendenti temono lo smantellamento della libertà di stampa da parte del presidente Lukashenko. I giornali critici nei suoi confronti o quelli che semplicemente deviano dalla linea politica governativa subiscono persecuzioni da parte della polizia e si vedono rifiutare qualunque forma di cooperazione da parte dei giornali ufficiali. Subiamo una pressione indiretta, malgrado non ci venga detto cosa pubblicare, ha affermato Pavel Suk, editore della Nasha Svoboda, un giornale i cui uffici sono stati perquisiti dalla polizia. La posizione di Lukashenko è debole e non si sa cosa sarebbe capace di fare per conservare il potere. Con un referendum ampiamente contestato, Lukashenko si è procurato il diritto di ricandidarsi per un terzo mandato presidenziale nel 2006. Ma secondo l'Istituto Gallup, la partecipazione alle urne sarebbe stata inferiore al 50%, invalidando i risultati per non raggiungimento del quorum. Il capo dell'opposizione liberale ha affermato lunedì scorso alla radio Eco Moskvi di possedere le prove di una manipolazione dei risultati elettorali. In molti casi le schede elettorali sarebbero state ignorate, mentre le urne sarebbero state sequestrate dalle milizie di Lukashenko, che poi, lontano da qualunque controllo, avrebbero contato i voti. Secondo il giornale di Mosca Ivestia, alcuni elettori avrebbero addirittura ricevuto la propria scheda elettorale con la croce già apposta sul sì. La vittoria di Lukashenko è stata accolta da manifestazioni di scontento. I leader di queste manifestazioni sono stati arrestati e condannati a 15 giorni di carcere per direttissima. Secondo Nikolai Stakovich, in realtà Lukashenko avrebbe perso il referendum, ma costringerebbe al silenzio chiunque ponga istanze democratiche. Die Welt, mercoledì scorso, diceva che ancora 37 oppositori si trovano in stato di arresto presso la polizia di Minsk. Tra gli arrestati anche Nikolai Stakievich, capo del Partito Socialdemocratico, e il capo dell'estrema destra, Pavel Severinets. Mentre il capo dei liberali, Anatoly Lebedeko, è finito in ospedale con le costole rotte e un trauma cranico, per essersi opposto alla milizia, ha affermato il ministro degli interni bielorusso. Ma secondo testimoni oculari, Lebedeko sarebbe scappato in un ristorante quando la milizia è arrivata e sarebbe stato arrestato senza opporre resistenza. I giornalisti che hanno assistito ai fatti sono stati minacciati e picchiati anche loro. Da Zurigo, Tito Gandini per Reporter Associati e Amisnet.